dopo il GR di Radio Popolare, come ogni venerdì oramai, si va con il triplo appuntamento in scena. Iniziamo quindi dando lettura anche agli SMS, WhatsApp e Telegram che sono arrivati durante lo stacco con il GR. Allora, un saluto a Oddo che mi manda la posizione di Radio Città Fujiko, sei di passaggio quindi. E intanto che guardavo fuori ho notato un levarsi di una foschia, ecco, e ho pensato agli attacchi che ho ricevuto, attacchi no, non sono stati attacchi, critiche, ecco, critiche vigorose, giustamente poi anche, che ho ricevuto per la mia visione sui 30, no? Allora, guardando la foschia mi è venuto così di naturalmente, come faccio ogni volta, e mi raccomando, prudenza, meglio arrivare 5 minuti dopo piuttosto che, lo sapete bene, ogni volta che piove, ogni volta che c'è l'asfalto bagnato, ogni volta che il traffico è intenso, ogni volta che c'è nebbia nelle zone periferiche, io penso di essere l'unico che lo fa, penso di essere l'unico che al microfono e una diffusione radiofonica pubblica ricorda, visto che questo anche è momento fra l'altro di percorso e di guida per le nostre, le vostre quotidianità, penso di essere l'unico, no? Non so, fate zapping, ascoltate un po', che ricorda, ehi rega, pianen, piano. They say that I won't last too long, home Broadway. Comunque giustamente leggiamo anche il messaggio di Matteo che arriva sulla notizia dal Corriere di Bologna. Guarda, scrive Matteo che 20 dimissioni in un anno in un'azienda con più di 1000 dipendenti e niente, qui da me siamo in 200 e ne abbiamo ben di più. Allora, a parte che parleremo di lavoro a breve, a parte che io sono nipote di un manovratore di tramvai, come si dice a Bologna, e figlio, povero papà, autista d'autobus per l'ATC, quindi sono ben informato. Periodo di bei tempi in cui insomma il lavoro all'ATC era da salvaguardare assolutamente. Comunque i tempi cambiano, ormai sul lavoro non c'è più rispetto, la precarietà, la mancanza di sicurezza, chi più ne ha più ne metta, ma non sto a approfondire su questo. Io non ho detto nulla, ho semplicemente letto le prime pagine con due notizie che andavano un po' in senso opposto, ecco tutto qui, l'ho solamente riportato, Matteo. Proprio vero, è che un mondo alla rovescia. Comunque dai pure, laboratorio oratorio di San Filippo Neri, comunicato stampa, arriva dal via già da questa sera la rassegna del lab oratorio di San Filippo Neri e riparte con uno spettacolo dedicato a Concetto Pozzati, di cui ancora vi è l'esposizione. La Fondazione del Monte, la curatela e l'organizzazione di Bisma Onda per questi appuntamenti che vanno a spettacoli, conferenze, presentazioni letterarie, musica, sono tutti a ingresso libero, a parte alcuni che sul programma verranno indicati. Ovviamente vi è la relazione con Art City 2024, tanto e oltre, come vi ho detto, incontri, motivi di dibattito, attualità, un impegno artistico veramente molto esteso in una sede particolare e veramente molto molto bella esteticamente. Ne abbiamo parlato con Mariangela Pitturro, direttrice artistica, per quanto riguarda la stagione 2024, la ripartenza del lab oratorio di San Filippo Neri. Ascoltiamo le sue parole che ci presenterà insomma un po' il programma, tutto ciò riportato dalla nostra Viola Balugani, che ringrazio. Quest'anno partiamo con un focus tutto dedicato all'arte. Riapriamo il 26 di gennaio con il riallestimento di uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Angela Malfitano, dedicato alla figura di Concetto Pozzati, proprio in occasione della mostra che si tiene qui davanti, grazie al Palazzo Fava, grazie alla collaborazione tra le due fondazioni Del Monte e Carisbo. Subito dopo, il 30 di gennaio, parte una mostra che è Storia di un onesto uomo, una installazione Sai specifiche di Luca Monterastelli, che fa parte di Art City. Entrambe queste occasioni artistiche naturalmente sono state fortemente volute dalla professoressa Cristina Francucci, che per la Fondazione del Monte si occupa per l'appunto della parte culturale. A seguire la programmazione del San Filippo Neri, poi seguirà cicli tematici come ogni anno, sempre grande spazio alle donne, al pensiero femminile nelle varie declinazioni. Quest'anno avremo Barbara Stefanelli, vice direttore del Corriere della Sera, con il suo bel libro dedicato alle donne iraniane, alla forza, al coraggio e alla vita durissima che conducono in quel paese così repressivo. Avremo un volto fresco, nuovo, che però si sta facendo notare molto in TV, che è Francesca Fialdini, che ha scritto il libro sui disturbi alimentari. E nell'ambito invece di quello che noi chiamiamo prima della prima, cioè l'anteprima degli spettacoli, prima che diventino professionali e vadano in scena, avremo la straordinaria attrice Arianna Scommegna nel testo di Romain Gary, La vita davanti a sé. Separate the positive from the negative that frustrates a person. Then he or she worsens and starts to curse and feels like cursing at the scenes I must clean. Get the Grips, Ronnie Jordan, disco bellissimo, The Antidote. And sad like you lost the love you had. Get to grips, I'm like, won't be as bad as thinking at the end of your tail by getting to grips. It's a load that you carry can be as light as a. Per i più giovani si intitola Rovescia, il viaggio fra le dinamiche talvolta incomprensibili, no? degli adolescenti, realizzato da Radio Immaginaria, un network fatto diretto e condotto da ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Non sarà una lezione, nemmeno una conferenza scientifica, quanto un'occasione per attivare una comunicazione spesso difficile su famiglia, bullismo, amici, scuola, amori, social. E Radio Immaginaria, grazie alla propria community, da sempre mette in connessione genitori, insegnanti e formatori, un'altra delle idee di Laboratorio San Filippo Neri. Tanta attenzione per quello che è il motivo di dialogo sull'attualità, un'attenzione ai confronti e agli approfondimenti arte, teatro e letteratura. Come ho detto, la partenza sarà con uno spettacolo dedicato all'esposizione che ancora vi è per Concetto Pozzati XL. Palazzo Fava, ne abbiamo parlato in mostra ovviamente. Si procede con questa presentazione, fra l'altro, come ho detto, letteratura con libri in scena, approfondimenti e incontri e una continuità nel programma del Laboratorio San Filippo Neri. E in questa seconda parte di intervista curata dalla nostra Viola Balugani ne porteremo notizie all'interno del Breakfast Club. Come si procede? Poi altri personaggi molto importanti che vanno da Marco da Milano con il suo storia della mia piccola patria, dal Risorgimento fino ai funerali di Michela Murgia. E ancora avremo Francesco Costa, che è un idolo assoluto anche e soprattutto dei giovani, grazie alla capacità che ha di raccontare la politica in modo che sia comprensibile, accessibile e anche piuttosto super partes. E in questo caso dovremo fare due appuntamenti, perché l'oratorio San Filippo Neri, che tiene 300 posti, non sarà sufficiente a contenere il pubblico. Poi ancora apriremo due filoni, o meglio, li abbiamo già perseguiti, ma quest'anno li focalizzeremo con maggiore precisione, proprio grazie al suggerimento della nuova presidenza della Fondazione del Monte. Ci dedicheremo a raccontare gli adolescenti, e quest'anno abbiamo chiamato con noi per farlo Radio Immaginaria, con un evento spettacolo che si intitola per l'appunto Rovescia, dove l'intento è quello di spiegare agli adulti in che modo interloquire con gli adolescenti, che sono sempre piuttosto criptici. Abbiamo chiamato i giovani reporter, che sono dei ragazzi neodiplomati che si dilettano con il mestiere del giornalismo, e li abbiamo chiamati a parlare di un tema attualissimo, che è quello del patriarcato, con la filosofa Maura Gancitano. Per la sostenibilità, oltre a presentare in anteprima il documentario di Mario Tozzi sul fango fatto a seguito dei gravi danni causati dall'alluvione proprio qui vicino a noi in Romagna, ospiteremo il professor Enrico Giovannini per parlare di sostenibilità, dal momento che lui da diversi anni è direttore proprio di un festival che indaga i 17 obiettivi dell'Agenda 2030. E per finire, tutte queste informazioni dove è possibile trovarle? Sul nostro sito oratoriosanfilipponeri.com. L'ingresso agli eventi, voglio ricordare che grazie al sostegno della Fondazione del Monte, dal momento che l'Oratorio San Filippo Neri è casa loro, è sempre gratuito. E quindi non è prevista la prenotazione, salvo appunto nel caso di Francesco Costa e nel caso di una visita guidata che è per gruppi ristretti nei meandri del San Filippo Neri, che è il racconto di Filippo. Per tutti gli altri appuntamenti basta presentarsi, sono quasi sempre alle 20:30, tranne la domenica in qualche occasione. Perfetto, allora io la ringrazio e arrivederci. Grazie a voi, vi aspettiamo. Le indicazioni, l'apertura già da questa sera con lo spettacolo dedicato a Concetto Pozzati in mostra a Palazzo Fava. Riparte quindi la programmazione 2024 per quanto riguarda il laboratorio di San Filippo Neri. Noi siamo arrivati al termine di questa prima frazione che porta in scena gli appuntamenti sul palcoscenico proposto da Radio Città Fujiko, un po' di musica dalla Compost Record, Keep You con Heard featuring Yuki Minagano. Compost Record attenta all'elettronica, a questi beat e nello stesso tempo anche a una sorta di musica di gradevole oltrefruizione, ben fatta e di gusto tra il jazz, l'EDM e il broken beat e oltre. Compost Record, Yuki Minagano, Keep You Heard, la produzione di questo brano. A breve pubblicità si rientra e riascolterete la sigla della rubrica In Scena, perché si continua sul palcoscenico di Radio Città Fujiko. A tra poco. It's alright.